GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Bonus edilizi in Friuli Venezia Giulia, 286 milioni di crediti incagliati, gravi problemi di liquidità alle imprese. Nord-Est ancora locomotiva d'Italia ma troppo lenta, il Friuli Venezia Giulia deve attrarre capitale umano dall'estero. È già a rischio siccità, falde ai livelli minimi e invasi semivuoti, ma piogge in linea con quelle degli anni scorsi. Medici di famiglia, nella giornata del personale sanitario l'SOS, sono sempre di meno e non vengono sostituiti. Carnevale, le feste del Martedì Grasso, dal Testamento e cantata a Monfalcone al Corso Mascherato di Trieste. 120 anni di vita del Conservatorio Tartini di Trieste e riparte l'omaggio al compositore e violinista di Pirano. Festa Vittozzi, Sappada celebra la sua regina rientrata dai mondiali di biathlon con 4 medaglie al collo. Calcio, Udinese imperativo vincere, prossima partita in casa contro lo Spezia, turno decisivo anche per Pordenone e Triestina. 7:19 minuti di martedì 21 febbraio, buongiorno dalla Razzani e Rita Micoli, subito il meteo, il cielo è da nuvoloso a variabile sulla regione, le temperature registrate alle 6, a Trieste 7,5 gradi, a Udine 7 gradi, a Gorizia 5 gradi, a Pordenone 4,5 gradi, a Tolmezzo 3 gradi, a Tarvisio 2, a Forni di Sopra 5 decimi di grado. Sul Piancavallo meno 1 grado, a Sappada meno 1,5, sul Monte Lussari 8,5 gradi positivi, sul Monte Zoncolan 5,5, sulla costa Lignano 8,5 gradi, grado 7,5. Vediamo le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Dalla costa alle Prealpi tempo umido con cielo coperto e foschie. Sulla fascia alpina in quota cielo poco nuvoloso e molto mite con zero termico oltre i 3.000 metri. L'aria umida potrà penetrare anche nei fondovalle della Carnia. Ieri il confronto a Roma tra governo e categorie su possibili modifiche al decreto che ha bloccato lo sconto in fattura per i bonus edilizi. In Friuli Venezia Giulia i crediti incagliati sono 286 milioni, un fenomeno che sta comportando gravi problemi di liquidità alle imprese. Il rischio è che case e condomini rimangano con i lavori fatti a metà e che si siano sostenute spese preliminari senza che si possano avviare i cantieri. In apertura di servizio la voce del segretario di Confartigianato Trieste, Enrico Eva. Su Trieste le posso dire che abbiamo 60-70 cantieri fermi, più che fermi, molto molto rallentati con pochissimo personale a disposizione. Decine di condomini solo nel capoluogo regionale si ritrovavano cantieri quasi paralizzati già prima del decreto di giovedì scorso, che potrebbe ulteriormente peggiorare la situazione. Manca la liquidità nell'edilizia, le imprese sono piene di crediti che non possono trasformare in denaro. Il settore finanziario ha prima rallentato, poi interrotto l'acquisto dei crediti che le aziende hanno ottenuto per i lavori nell'ambito dei bonus edilizi, non solo il 110%, poi trasformato in 90%. Le banche non saprebbero più che farci di quei crediti perché hanno già compensato col fisco tutto il compensabile. In questo contesto le imprese sono in difficoltà col decreto del governo, non solo per l'interruzione del meccanismo dello sconto in fattura, ma anche per il divieto agli enti locali di acquistare i crediti incagliati così come aveva disposto il Consiglio regionale la settimana scorsa. Un imprenditore del settore impiantistico si è messo a piangermi per telefono, e questa è una cosa insomma, che deve far riflettere tutti onestamente, di persona onestissima che ha fatto correttamente i lavori, che non sa come venirne fuori, che ha coscienza i propri lavoratori, parliamo di decine e decine di lavoratori, quindi veramente qualcuno è alla disperazione. La possibilità che i lavori vengano lasciati a metà fa venire il capogiro ai proprietari di case e agli amministratori di condominio. C'è poi chi è rimasto in mezzo al guado. Alcuni stabili hanno già sostenuto delle spese per attività preliminari, ma senza aver avviato i lavori entro lo scorso 17 febbraio, data spartiacque secondo il decreto, potrebbero aver perso tutti i soldi. Silvio Spagnol, presidente di ANACI Trieste, l'associazione che riunisce gli amministratori di condominio. Coloro che si trovano in questa situazione rischiano di avere speso gli oneri per la parte preliminare inutilmente, e cioè senza poter poi realizzare l'intervento. Si arriva tranquillamente a decine e decine di migliaia di euro. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. La locomotiva nord-est è troppo lenta rispetto all'andamento di tante zone d'Europa e Confindustria Udine rinnova l'invito al governo, aprire all'immigrazione qualificata, sburocratizzando le procedure di ingresso. In 20 anni il Friuli Venezia Giulia è passato dal 38esimo all'81esimo posto tra le regioni europee per prodotto interno lordo pro capite. Senza andare troppo lontano, se in relazione a questo parametro la nostra regione dal 2001 ha fatto segnare un più 35%, la vicina Slovenia più 80%, e ci sono regioni in Europa occidentale che sono cresciute anche di più. Il nord-est così è sempre locomotiva, ma soltanto d'Italia. Lo certifica il rapporto 2022 di Fondazione Nord-Est, presentato in Confindustria a Udine. Gianluca Toschi, ricercatore senior di Fondazione Nord-Est. La parola d'ordine è proprio attrattività. Mancano 50.000 lavoratori all'anno. E questo è un numero preoccupante, insomma, che deve essere tenuto in considerazione, appunto, se si vuol far tornare a crescere e a correre la locomotiva. Poi mancano anche alcune competenze, quindi legate soprattutto alle due grandi transizioni che stiamo attraversando, quella digitale e quella della sostenibilità. Luca Paolazzi, direttore scientifico di Fondazione Nord-Est. Pensiamo alla Germania, hanno varato un piano per far arrivare 400.000 persone all'anno, quindi non nascondono la testa sotto la sabbia, ma affrontano la questione migratoria in modo proattivo. Proprio sulla scorta dell'esempio tedesco, il presidente di Confindustria Udine, Gianpietro Benedetti, è tornato a chiedere al governo di fare presto, aprendo all'immigrazione qualificata e sburocratizzando le procedure d'ingresso. Questa è un'emergenza. Ecco, questo è un problema che andremo a spingere con abbastanza energia nelle prossime settimane. Benedetti, che è anche presidente reggente di Confindustria FVG, indica che le discussioni sulla nuova guida degli industriali a livello regionale sono addirittura d'arrivo. Parlando di mercati, ha evidenziato che da globali diventeranno macro regionali e questo spingerà a una metamorfosi rispetto a quello che si produce. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sarà inaugurata questa mattina la nuova centrale termica della cartiera di Ovaro, che fa parte del gruppo RDM, leader nella produzione di cartoncino riciclato e maggiore produttore in Italia, Francia, Paesi Bassi e Penisola Iberica. La nuova centrale termica è stata realizzata per rispondere alle esigenze di ammodernamento delle linee produttive, migliorarne efficienza e affidabilità e al tempo stesso ridurre le emissioni di CO2, il consumo di acqua, il rumore e il costo dell'energia. Si tratta di un investimento, scrive il gruppo in una nota, che permetterà al sito produttivo di raggiungere significativi miglioramenti in termini di impatto ambientale. Lo stabilimento di Ovaro è specializzato nel solid board, cartoncino che ben si presta per carte ad uso speciale, imballaggio di lusso ed editoria. Pericolo siccità, non sono bastate le piogge degli ultimi 2 mesi dell'anno a invertire l'andamento verso il basso delle falde e gli invasi sono pieni solo per un terzo. Falde ancora a livelli minimi e corsi d'acqua in magra sono gli elementi, assieme a un manto nevoso poco abbondante, di una crisi idrica che in regione è ben lontana dall'esaurirsi. Ad attestarlo è un rapporto della Direzione Regionale Ambiente, che spiega come le precipitazioni di novembre e dicembre hanno fatto risalire in parte i livelli delle falde, che nel 2022 avevano raggiunto il punto più critico mai registrato. Un trend che però si è già esaurito, dal momento che le ultime precipitazioni significative risalgono ormai a quasi un mese fa. La mancata ricarica dei bacini ha un impatto anche sul livello degli invasi artificiali, che attualmente sono pieni solo al 35% della loro portata. Per contrastare la scarsità d'acqua, la Regione ha deciso di finanziare con quasi 28 milioni di euro proprio 12 nuovi mini invasi. Fabio Di Bernardo, direttore del Servizio Gestione Territorio Montano, Bonifica e Irrigazione della Regione Friuli Venezia Giulia. Con questi ulteriori finanziamenti, nell'arco di 3-4 anni si potranno vedere in funzione ulteriori impianti, sempre dedicati a un po' a quella che è l'agricoltura su aree di pregio dal punto di vista delle colture agricole, o comunque per impianti che possano servire come irrigazione di soccorso in situazioni di emergenza, come abbiamo vissuto l'estate scorsa. Un progetto a cui si affiancano i bandi per finanziare il passaggio delle aziende agricole a nuove tecniche di irrigazione di precisione e interventi di più rapida esecuzione. Si cerca di intervenire su situazioni preesistenti, come il caso di ex cave di ghiaia posizionate in prossimità al di sotto della linea di risorgiva e che quindi sono dei bacini naturalmente di drenaggio di quella che è la falda freatica. Trieste, Daniele Lettig, TGR, Friuli Venezia Giulia. Molto dipende dalle precipitazioni dopo un 2022 siccitoso come non capitava da oltre 70 anni. Il Friuli Venezia Giulia risulta dal punto di vista meteorologico in controtendenza rispetto alle altre zone del nord Italia, in quanto le precipitazioni registrate nei tre mesi invernali sono state in linea con quelli degli scorsi anni e quanto emerge dai dati elaborati dall'Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Regione. Il 2022 è stato il peggior anno per quanto riguarda le precipitazioni, secondo quanto emerge dalle analisi delle serie storiche. Bisogna andare indietro al 1945 per registrare un'annata così siccitosa nella pianura friulana. Andrea Cicogna, climatologo dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Una piovosità tutto sommato in linea con la climatologia, con le medie dal 1991 fino al 2020. Normale, mentre invece siamo usciti dall'anno scorso, il 2022, estremamente siccitoso, dove le piogge sono risultate dal 30 al 50% inferiori rispetto al dato medio climatico. Quest'inverno sì, siamo abbastanza in linea, certo, la zona più a ovest, la Carnia, ha piovuto un po' di meno, ha nevicato un po' di meno, tanto che la neve in quota nella zona appunto più occidentale delle nostre montagne ce n'è un po' di meno, mentre sulle Alpi Giulie abbiamo dei livelli abbastanza normali. Malgrado i mesi di gennaio e febbraio siano stati poco piovosi, qualcosa nel breve periodo potrebbe cambiare. Ancora Cicogna. Nei prossimi giorni ci sarà un cambiamento della situazione meteorologica con delle piogge previste nel fine settimana. Che indici di siccità abbiamo avuto? Se facciamo il confronto tra i dati del Friuli Venezia Giulia e quelli del nord Italia, si vede come in questi ultimi tre mesi, tutto sommato, il Friuli Venezia Giulia non abbiamo patito di grandissima mancanza di pioggia. Al contrario, altre zone del nord Italia, come per esempio il Piemonte. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. E passiamo alla cronaca con due gravi incidenti avvenuti ieri in Friuli a due persone che stavano operando su impalcature. Meno pesante l'infortunio sul lavoro a San Giorgio di Nogaro in zona industriale a Ussacorno. Un uomo di una sessantina d'anni di età è caduto da circa 2 metri di altezza mentre stava svolgendo operazioni di manutenzione. I colleghi hanno chiamato il 112, l'uomo è stato elitrasportato all'ospedale di Cattinara in codice giallo. Più serie le conseguenze della caduta da un ponteggio da circa 1,5 metri avvenuto a Pozzuolo del Friuli, nelle pertinenze di un'abitazione privata. Il ferito, un 65enne, è stato stabilizzato dalle equip sanitarie e trasferito in volo in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. E un incendio è scoppiato nella tarda serata di ieri in un edificio abbandonato del Porto Vecchio di Trieste. I vigili del fuoco sono stati impegnati per gran parte della notte per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Nessuna persona è rimasta coinvolta, sconosciute al momento le cause del rogo. E abbiamo celebrato ieri la giornata nazionale delle professioni sanitarie, tutte in grande difficoltà oggi dopo anni di pandemia e la fuga del personale verso i privati. Se è vero che la professione medica è sempre meno attrattiva per le nuove generazioni, questo è particolarmente evidente per la medicina di famiglia, al punto che si iscrivono meno studenti dei posti disponibili. Andando avanti così, nel 2030 mancheranno all'appello più di 470 medici e pediatri di libera scelta. Nei prossimi 7 anni più della metà degli attuali medici di famiglia e pediatri del Friuli Venezia Giulia andrà in pensione. Ne resteranno così pochi che ognuno di loro dovrà assistere ben 3.200 pazienti. Lo stipendio non è dei più alti, l'età della pensione è salita a 72 e inoltre il lavoro è appesantito da una sempre maggiore mole di burocrazia. I laureati in medicina che scelgono di frequentare i 3 anni di corso per diventare medici di famiglia sono sempre meno. Romano Paduano, direttore scientifico CEFORMED, la scuola regionale per formare i nuovi medici di medicina generale. Ricordo che in Friuli Venezia Giulia fino a pochi anni fa avevamo 20 posti, poi siamo passati a 40, adesso siamo passati a 57 l'anno scorso, a quest'anno. Quello che però è ancora più tragico è che purtroppo questi posti per la prima volta l'anno scorso non sono stati riempiti completamente. Mentre prima potevamo dire che per 20 posti disponibili avevamo 80 candidati, per cui c'era anche, mi permetto di dire, una scelta di qualità, perché giustamente c'era un concorso, si prendevano i migliori. Con l'anno scorso non siamo neanche riusciti a riempire i posti disponibili. Quest'anno al 1° di marzo, cioè tra la prossima settimana, ci sarà il nuovo concorso, il bando è già chiuso, si intende, per sempre i famosi 57 posti ci sono 77 iscritti, ma non sappiamo quanti ne parteciperanno. Alcuni poi a settembre parteciperanno ai concorsi di altre specialità mediche e quindi potrebbero lasciare la medicina generale. Chi invece sta già frequentando il triennio e terminerà il percorso di studio il 26 settembre non potrà poi esercitare la professione per un altro anno. Per motivi burocratici che non riusciamo assolutamente a rimuovere, la graduatoria per iscriversi all'elenco dei posti disponibili per la medicina generale scade il 15 di settembre. Cioè per 15 giorni questi ragazzi perderanno un altro anno. Tutte le perdite di tempo continue che abbiamo, potenziando la telemedicina, che sarebbe fondamentale, spostare le informazioni, non spostare la gente, potenziando il personale di segreteria. Se il lavoro, se mancano medici, dobbiamo farci carico di un numero maggiore di pazienti, cerchiamo almeno di trovare chi ci aiuta in tutta quella parte burocratica che sta diventando ridondante. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. E sono sempre di più le domande di iscrizione agli asili nido anche nel Pordenonese. Sentiamo scadenze e novità in questo servizio. C'è tempo ancora fino al 28 febbraio per iscrivere i bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni ai nidi d'infanzia Il Germoglio e l'Aquilone gestiti dal comune di Pordenone e per ottenere eventuali contributi comunali per la frequenza ai servizi privati accreditati. Si può presentare domanda anche per le nascite previste entro il 31 maggio 2023. L'iscrizione va fatta esclusivamente online tramite SPID. Apriranno invece dal 1 al 31 marzo i termini di presentazione delle domande di iscrizione all'asilo nido comunale di Porcia, il Girotondo. La richiesta va presentata solo accedendo con le proprie credenziali di identità digitale alla piattaforma telematica che sarà attivata dal 1 marzo sul sito del comune. Le iscrizioni agli asili nido sono in continua crescita. A Pordenone l'anno scorso gli uffici comunali hanno ricevuto 144 domande, 56 sono rimaste in lista d'attesa e quest'anno i numeri potrebbero essere ancora più alti. Ad oggi sono già oltre 100 le domande per le nuove iscrizioni. Grazie a fondi del PNRR, nel quartiere Torre è in programma la costruzione di un nuovo nido che aumenterà la capienza rispetto all'attuale struttura di 17 posti. Lunedì 27 febbraio la variante approderà in consiglio comunale. Nel frattempo un nido privato ha già avviato un nuovo servizio accreditato di micronido in Viale Dante per circa 15 bambini. In questi giorni sono anche in corso le prove del concorso per l'assunzione di un istruttore socioeducativo. Al bando si sono presentati in 150, ammessi agli orari 86. La graduatoria sarà disponibile per eventuali sostituzioni o nuove assunzioni. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. È martedì grasso e sono tante le feste in regione. La 29ª edizione del Carnevale di Trieste è giunta al suo momento più atteso, il corso mascherato che sfilerà nelle vie del centro e assegnerà il Palio di Trieste detenuto da Roiano. Partecipano i rioni della città, ma è aperto a tutti e prenderà il via alle 14 da Piazza Oberdan. 7 quest'anno con la new entry di San Giacomo, i rioni che si contenderanno il Palio. Dalle 8 alle 20, divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli in diverse strade cittadine. Dalle 13 alle 20 e comunque fino al termine del corso mascherato e delle operazioni di pulizia, sospensione temporanea della circolazione veicolare. A Monfalcone alle 9 la partenza del corteo degli sposi per il tradizionale giro di saluto nei borghi della città fino ad arrivare, prima di mezzogiorno, in Piazza della Repubblica, dove avrà luogo la cerimonia di inaugurazione dello storico Feral. Alle 12 il giuramento del notaio Toio Grattarioli, la lettura del testamento de Sior Anzoleto Postier alla sua ultima apparizione, poi la cantada con l'accompagnamento della banda civica della città. Alle 14 da via Matteotti partirà la grande sfilata dei carri. A Muggia dalle 10 alle 12 in piazza Marconi intrattenimento, alle 16:30 da via D'Annunzio prenderà il via la sfilata senza carri, replica del corso mascherato, questa volta però solo di figuranti. Alle 17 di nuovo in piazza Marconi la consegna dei 4 trofei principali del carnevale, le premiazioni delle maschere d'oro e delle bande, l'assegnazione del trofeo artigiani. Dalle 20 nelle piazze Calli aperitivo musicale in maschera. A Pordenone dalle 14.30 in piazza 20 settembre sarà organizzata la grande festa dei bambini, in piazza due trampolieri e un animatore. In caso di maltempo la festa si svolgerà nella polisportiva Armando Lupieri a Villanova, in via Pirandello. E a Udine in piazza Matteotti dalle 15 alle 17 spettacoli di baby dance a partire dalle 14.30 il Trucca Bimbi. Nel 2023, che segna i 120 anni di vita del Conservatorio Tartini di Trieste, riparte l'omaggio al Maestro delle Nazioni, il grande compositore e violinista di Pirano, insigne innovatore delle tecniche di esecuzione, divulgatore e instancabile ricercatore. Da oggi a giovedì 23 febbraio il Conservatorio, a lui intitolato, promuove e ospita il cartellone di eventi Tartini 330+1. A illustrarci la figura e l'importanza di Giuseppe Tartini e il programma è Giulio D'Angelo, coordinatore del Centro Studi Tartiniani Bruno e Michele Polli. Tartini è importante, importantissimo come compositore, è stato uno dei compositori che meglio hanno definito la storia della musica del Settecento, ma nello stesso tempo è stato anche un teorico, uno scienziato, un intellettuale che ha contribuito come pochi al grande dibattito culturale intorno alla metà del Settecento, in cui lui interagiva con personaggi come Padre Martini o anche come i protagonisti dell'Enciclopedia francese. Ecco. In più, e questa è la cosa che a noi più piace, era definito il maestro delle nazioni. Accorrevano da tutta Europa per imparare l'arte del violino e della composizione da lui, e questo ci piace molto perché, essendo il nostro conservatorio intitolato a Tartini, ci piace in qualche modo perpetuare la sua lezione e fare in modo che, come già di fatto accade, il conservatorio Tartini sia il conservatorio delle nazioni. Quali sono le iniziative principali con le quali verrà ricordato? Ci sono molte iniziative, alcune di concerto, tre degli ensemble più importanti per l'esecuzione del barocco con modalità storicamente informate, tutti che suonano e seguono musica con strumenti d'epoca o con copie di strumenti d'epoca. Poi soprattutto ci sono workshop e convegni ai quali parteciperanno gli studiosi più importanti tartiniani. Saranno peraltro presentate alcune pubblicazioni intorno a Tartini, in particolare tre volumi dell'editore Peter Lang, sono tre volumi in inglese, uno dei quali è prodotto dal nostro conservatorio, e poi l'edizione critica delle opere tartiniane a cura di Bernard Reiter. In più presenteremo le pagine internet del Centro Studi Tartiniano, all'interno c'è un catalogo tematico online che è una sorta di progetto pilota, ce ne sono pochissimi al mondo, il nostro è certamente quello con una modalità di fruizione molto, molto particolare che agli studiosi e ai musicologi interessa molto. Al Teatro Verdi di Gorizia Mine Vaganti di Ferzan Ospetek, che firma la sua prima regia teatrale mettendo in scena l'adattamento di uno dei titoli più amati e premiati della sua filmografia del 2010. L'appuntamento alle 20.45 nell'ambito del cartellone di prosa. Nello spettacolo teatrale Vincenzo Cantone, il padre di famiglia, è interpretato da Francesco Pannofino, Iaia Forte e Stefania Cantone, madre di Tommaso e Antonio, interpretati rispettivamente da Eric Tonelli nei cast della fiction Vita in fuga e della soap Un posto al sole, e Carmine Recano, che oltre ad aver recitato nella serie TV La Porta Rossa e Mare Fuori ha lavorato al cinema con Ospetek, in scena anche Simona Marchini. Nella sede della ginnastica triestina, sala Primo Rovis, alle 10.30, I piccoli di Podrecca, Come and Go Varietà, prodotto dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con SGT, Società Ginnastica Triestina. E adesso lo sport, una sapata in festa con tantissimi tifosi arrivati anche da più lontano, ha accolto la sua campionessa Lisa Vittozzi, reduce da un mondiale del biathlon in Germania che le è fruttato 4 medaglie. È tornata nella sua sappada dopo un mondiale che rimarrà nella storia del biathlon. Lisa Vittozzi osserva quelle montagne a lei tanto care con al collo 4 medaglie conquistate ai mondiali di Oberhof. Tiene quei preziosi metalli tra le mani, quasi a voler sentire il loro peso. Pesano tanto, dopo un periodo molto difficile sono tornata ai massimi livelli, quindi hanno un peso ancora maggiore nonostante tutto quello che mi è successo. un ritorno al successo dopo alcune stagioni al buio. Il sorriso mi è tornato già con l'inizio della Coppa del Mondo. Riconosco che sono un'altra persona rispetto agli anni scorsi. Quest'anno sono completamente una persona diversa, mi godo veramente tutte le gare. Una rinascita grazie ai consigli del suo nuovo allenatore personale, il tecnico carnico Mirko Romanini. Siamo usciti da questa situazione insieme e mi ha aiutato molto, mi è stato vicino nei momenti duri, ma mi ha anche spronato e adesso si gode i successi con me. E a fare da skiman alla Vitozzi, da quest'anno c'è un certo Giorgio Dicenta. È una persona che mi dà tanta energia e sicuramente mi dà anche tanti consigli, visto che è stato veramente un atleta di grandissimo livello. Una carriera iniziata tanti anni fa, con la fortuna di avere vicino a casa il centro biathlon di Forlì-Voltri. Per me è stato fondamentale perché altrimenti probabilmente non avrei praticato il biathlon. È comodo perché io ci arrivo in 10 minuti, mi posso allenare senza stancarmi troppo, senza dover fare ore e ore di macchina per trovare un poligono. Sappada, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Comincia una settimana importante per l'Udinese che domenica prossima affronta al Friuli lo Spezia. Ancora più importanti in Serie C le prossime sfide di Pordenone e Triestina. Tutto o quasi in un mese, già alla fine di marzo, prima della pausa del campionato, si conoscerà quale sarà l'emoticon della stagione dell'Udinese, sorridente, triste o neutro. A meno 2 dal 7° posto, fondamentale la prossima in casa contro lo Spezia, che avrà un nuovo allenatore, Leonardo Semplici, accostato in passato proprio alla panchina friulana. Missione dell'Udinese, vincere. Una gioia che in casa manca da settembre, dalla gara con l'Inter e dall'ultimo KO proprio con i nerazzurri, al Meazza, i numeri dell'altra faccia del campionato della squadra di Sottil. Dopo le 6 vittorie di fila in autunno, 11 punti in 15 partite, andamento da zona retrocessione, meglio soltanto di Sampdoria e Cremonese. Da gennaio, 6 punti in 8 partite, un problema in più per il tecnico dei friulani contro lo Spezia, la difesa. Biol squalificato e Bosso infortunato e Perez da valutare per un problema muscolare. Ci sono Beccao e Masina appena rientrato. Qualcuno, Eisibue, dovrebbe essere adattato al ruolo. Poi per i friulani le trasferte di Bergamo ed Empoli, prima di affrontare il Milan. Più che un mese, invece, sarà una settimana decisiva in Serie C per Pordenone e Triestina. I neroverdi, a meno 1 dalla vetta, lunedì 27 febbraio, affronteranno proprio la Feralpi Salò, prima con la Pro Sesto. In coda la Triestina, a meno 1 dal penultimo posto, tiene accesa la speranza. Senza Malomo, infortunato, gli alabardati ospiteranno la Juventus Next Gen. Obiettivo fare punti per superare il Piacenza e vedere i play-out. La formula alla fine prevede la retrocessione diretta per l'ultima classificata, poi 2 play-out, o meglio spareggi, andata e ritorno, da disputare fra la penultima e la quintultima e fra la terzultima e la quartultima. Le 2 perdenti andranno in Serie D. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sul piccolo di Trieste la notizia di apertura è il secondo sì del Consiglio Comunale alla variante per la cabinovia. Il testo passa in aula, l'opposizione contesta l'iter. Realizzazione dell'opera, le offerte entro oggi. Nella fotonotizia la politica internazionale con Biden a Kiev e l'abbraccio a Zelensky, vinceremo. Fra le notizie di cronaca locale la regione chiede a Roma il controllo sulle spiagge. In città ancora la questione delle scuole Sauro e Spaccini con l'appello dei nonni dei bimbi trasferiti. Via dell'Istria per noi è lontana. E poi l'avvertenza per l'addio della PPN SRL. A Porto Piccolo 30 dipendenti non hanno preso lo stipendio. E il carnevale torna la sfilata del Palio dei Rioni per il centro, tutti i divieti. Per la regione primo scontro Morettuzzo Fedriga sui 100 milioni del fotovoltaico, il primo denuncia, le FAC svelano che bonus FVG e nazionale non si sommano, il secondo replica, interverremo. Di piede 2 storie di sport, la presidente trionfa nel bowling dove la presidente è Natasha Pirkmusar, capo di Stato della Repubblica di Slovenia che ha vinto il torneo nazionale di bowling in coppia e poi la pallamano Trieste senza campo. La locomotiva nord-est e la sfida con i giovani, l'apertura del Messaggero Veneto di Udine che sottolinea come migliaia di neolaureati si sono trasferiti all'estero mentre pochissimi sono quelli attratti dal nostro territorio. A centropagina la foto della campionessa di biathlon Lisa Vitozzi e i festeggiamenti a Sappada, di spalla la cronaca con i 2 incidenti di ieri a San Giorgio di Nogaro e a Cargnacco. Sacco sistema un impianto e cade dall'impalcatura. In taglio basso, Don di Piazza, i viaggi per conoscere gli ultimi della terra in un ricordo del fratello Vito. Poi ha battuto il chiosco dei formaggi di via Zanona Udine con i progetti per ridisegnare l'area, che è uno dei temi che aprono la cronaca cittadina insieme alle asfaltature notturne delle rotonde di Viale Venezia. Sul Gazzettino l'apertura è per la siccità, falde a secco, agricoltura in allarme, ampio spazio nelle pagine nazionali per due cigni trovati morti a causa dell'aviaria e recuperati nella laguna di Marano. Altro titolo in primo piano, il malcontento di alcuni operatori delle Dolomiti friulane tra Cimolai, Sclaut, Erto e Casso, che sarebbero intenzionati ad entrare nel parco delle Dolomiti venete. Nella fotonotizia, più telecamere al Gervasutta di Udine dopo l'aggressione di un mese fa, due guardie mediche. In taglio basso, udinese, tifosi allo stadio pagando solo un euro per vedere la squadra contro lo Spezia. Il Piccolo di Gorizia e Monfalcone apre con una notizia di economia che riguarda la Pipistrel di Via Trieste. All'aeroporto di Gorizia la produzione di droni cargo. Il presidente dell'azienda americana ha illustrato il nuovo piano, velivoli elettrici e assunzioni. A Ronchi dei Legionari una bonifica da 750.000 euro per rimuovere l'amianto. Approvato dalla Giunta l'intervento propedeutico alla demolizione del secondo lotto della vecchia media da Vinci. E ancora opere pubbliche a San Canzian, dove decolla il progetto della ciclovia Turriaco Grado sul fiume Isonzo. Anche qui due storie di piede, la prima per protagoniste le poche cabine telefoniche superstiti. Secondo Telecom Italia resistono 96 postazioni pubbliche nell'Isontino, ma sono sovrastimate. In città 25 esemplari, di cui 4 sono estinte. La seconda riguarda il Geografie Festival, che riparte dai Rioni. Sul Gazzettino di Pordenone non cambiano i titoli principali, c'è però un box per Electrolux, nuova cassa integrazione anche a marzo, mentre resta avvolto nel silenzio l'interessamento del gruppo cinese Midea. Nella fotonotizia lo studio sui lupi, per il quale la regione ha stanziato 200.000 euro all'Università di Udine. Accanto a Pordenone giro di vite sugli accessi al centro, presso il regolamento poi le telecamere. In basso la polemica esplosa a Fiume Veneto per un convegno con ospiti Novax patrocinato dal comune. E ancora il lutto per Armando Pugliatti della Marrone Custom Cooking, considerata la Ferrari delle cucine. Sul Messaggero Veneto nella fotonotizia, carro mascherato per cospito al carnevale di Maniago, autori identificati. Di spalla anche qui la morte dell'imprenditore Pugliatti, sotto discarica cielo aperto al Vinchiaruzza Cordenos, gettate anche monete. E ad Aviano bomba a mano nel vecchio casolare, esplosione in sicurezza. Sotto di nuovo a Pordenone gli sversamenti nel laghetto e nella roggia, bianchi nel primo, marroni nella seconda. Comune, polizia locale e ARPA hanno fatto i rilievi, indizi per risalire all'origine. A Pordenone seconda tappa della nuova rassegna Da Vicino, un cartellone interamente dedicato all'editoria del territorio. Nella sala Ellero di Palazzo Badini, sede di Fondazione Pordenonelegge.it, alle 20.30 lo scrittore Angelo Floramo, fresco autore per Bottega Errante di Vino e Libertà. Dottore in storia con una tesi in filologia latina medievale, insegna materie letterarie al Magrini Marchetti di Gemona. Dal 2012 collabora con la Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli in veste di consulente scientifico per la sezione antica, manoscritti e rari. All'Università della Terza Età di Udine, conferenza dal titolo Che fine fecero i Longobardi in Friuli, relatore Alberto Teghil, alle 17 nella sede di Via Piemonte. Al Teatro Miela di Trieste la 32esima edizione della Rassegna Internazionale di Cinema di Montagna Alpi Giulie Cinema, proposta da Monte Analogo in collaborazione con Arci Servizio Civile. Alle ore 20.30 l'alpinista, attivista socioambientale, scrittore e regista culturale Alberto Peruffo, già ospite in altre occasioni di Monte Analogo, presenterà Prigionieri del Nanga, 8.126 metri Himalaya, offrendo una riflessione collettiva sull'imalayalismo contemporaneo, tra tentativi di record, salite forzate e pressioni degli sponsor. Prima alle 18 lo svizzero Liebegruss aus dem Anthropozän, quattro giovani esplorano, contemplano in forma di lettere, danno l'addio ai loro luoghi naturali del cuore. A seguire il canadese La List, Everything or Nothing, ambientato nel mondo del frisky. Per una importante manutenzione straordinaria dell'adduttrice principale dell'acquedotto che serve gran parte del Friuli centrale, oggi CAFC S.p.A. sospenderà il servizio idrico dalle 8.30 alle 18 nel capoluogo del comune di Tavagnacco, in tutto il comune di Pagnacco, escluse le frazioni di Modoletto e Fontanabona, in tutto il comune di Colloredo di Monte Albano, nella frazione di Bonavilla in comune di Pasean di Prato. Potranno verificarsi cali di pressione o momentanee interruzioni del servizio nel capoluogo del comune di Pozzuolo del Friuli e nella frazione di San Mardenchia, nella frazione di Passonsi, in comune di Pasean di Prato. Per fare in modo che il disagio sia il più limitato possibile, si invitano gli utenti a un uso oculato della risorsa idrica allo scopo di ridurre i tempi di interruzione del servizio. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 la rubrica in friulano Vuof Evelindi parlerà di inquinamento luminoso, a seguire alle 11.20 Radar, tra gli argomenti il viaggio in Antartide della rompighiaccio Laura Bassi e l'inquinamento acustico sottomarino. I programmi torneranno poi alle 13.29. In regia Federico Comare e Andrea Fontanot, in redazione ha collaborato Cristina Polselli. Dalla Razzani e Rita Micoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.